Savonarola, il frate che spersonalizzò Firenze. Prose scelte, un programma prodotto da Davide Giorgio per Radio Big World. Savonarola, prose scritte da Pasquale Villari, che visse al tempo in cui una compagnia britannica dominava commercialmente l'India e gli inglesi esportavano oppio verso est, e lette da me, che vivo al tempo in cui delle compagnie indiane dominano commercialmente la Gran Bretagna e gli inglesi esportano oppio verso ovest. D'altra parte, vanga piatta poco attacca, vanga ritta terra ricca, vanga sotto ricca al doppio. Serio. Capitolo 16. Il pisano, il nano e il cappone. Le cose di Toscana, per moltiplicati disordini, divenivano peggiori. Il giorno stesso che i medici venivano cacciati da Firenze, i pisani si sollevavano a rivendicare furiosamente la loro libertà. Da che erano caduti sotto il giogo fiorentino, o come essi dicevano straniero, altro non avevano mai agognato che il momento di poterlo scuotere. Perduta la loro indipendenza, essi avevano quasi in un istante visto rovinato il commercio e l'industria, scemata la popolazione e distrutto ogni ordine civile. La più parte di loro avevano perciò preferito l'esilio alla servitù. Ma all'avvicinarsi degli eserciti francesi risorgevano tutte le speranze, ed il Moro, che sempre pescava nel torbido e aveva già fatto il disegno di impadronirsi di Pisa, li istigava di continuo a sollevarsi, promettendo ogni sorta d'aiuti e facendo segretamente dar buone speranze anche da persone che erano intorno al re. Quindi non appena Carlo VIII entrava in città, che il popolo di Pisa corse a rumore le vie, distruggendo tutte le insegne fiorentine, gettando in arno il marzocco che era sul ponte e ponendovi invece la statua del re. Saccheggiarono poi le case dei rettori fiorentini, che vennero a furore di popolo cacciati dalla città. La libertà e l'indipendenza furono così proclamate, gli esuli richiamati, si raccoglievano armi, danari ed uomini per cominciare quella celebre e male augurata guerra pisana che doveva logorare le forze di due repubbliche appena rinate e spegnere tanti valorosi cittadini senza vantaggiare ad alcuno. Il re, trovandosi presente a tutti questi movimenti, li volle dapprima incoraggiare, ma vedendo poi cacciati i rettori fiorentini se ne mostrava invece adontato. Egli quasi avrebbe voluto che i pisani rivendicassero la loro libertà e che nello stesso tempo prestassero ubbidienza ai fiorentini. Il popolo invece, avendo preso il suo andare nella rivolta, procedeva oltre rapidissimamente, e Carlo allora, non occupandosi d'altro che di lasciare un presidio nella fortezza, partivasene senza quasi avvedersi di ciò che avveniva e senza punto riflettere alle conseguenze di ciò che aveva lasciato sperare ai pisani. Così, prima di entrare in Firenze, egli già le aveva recato una gravissima ferita, col permettere che i sudditi della Repubblica, sotto ai suoi occhi e con gli eserciti francesi in casa, si ribellassero, esempio pericoloso per tutto il dominio e che non tardò molto ad essere imitato da Arezzo, da Montepulciano e da altre città. Egli continuava intanto il suo cammino, fermandosi ancora qualche giorno a Signa, ove attese che i tumulti sedassero in Firenze e che gli onori si apparecchiassero convenevolmente al suo ingresso. Nuovi ambasciatori fiorentini vennero ivi a sollecitarlo perché volesse fermare i patti prima di procedere oltre, ma la sua risposta fu sempre: «Dentro alla gran villa assetteremo ogni cosa». Per tutte queste ragioni lo stato della città era sempre incerto e confuso, i medici appena cacciati, il vecchio governo distrutto ed il nuovo ancora non ordinato. Il re che entrava senza patti alla testa di un esercito poderoso e già bagnato di sangue italiano. C'era da sbigottirsi veramente. Per buona fortuna si trovavano però a consigliare la signoria a cittadini di molta prudenza e d'animo fermissimo. V'era fra gli altri Piero Capponi, che in quei giorni pareva essere divenuto il braccio della Repubblica, come il Savonarola ne era l'anima e il cuore. L'uno predicava la carità, la pace, l'unione, l'altro si trovava dovunque c'era bisogno d'aiuto e consiglio e provvedeva armi e soldati. Le case erano provviste ad ogni sorta di munizioni da guerra, i pali e le tavole per i serragli erano in pronto, i chiostri e le corti erano pieni di gente assoldata che si diceva ascendesse al numero di 6.000 e che tenevasi presta per uscire in difesa della Repubblica al primo suono della campana. A 15 a 16 per volta si vedevano intanto entrare nella città alcuni francesi, i quali, con la loro aria marziale e disinvolta, senza armi e col gesso in mano, andavano segnando le case degli alloggiamenti. Affettavano sprezzo ed indifferenza, ma pure non potevano nascondere la loro maraviglia nel vedere una città tanto splendida per stupendi edifici, ed in ogni sbocco di via rimanevano come attoniti della nuova prospettiva che si apriva ai loro occhi. Ma ciò che più di tutto richiamava la loro attenzione erano quei severi palazzi che parevano fortezze inespugnabili, quelle torri che portavano ancora i segni delle fiere e sanguinose guerre cittadine. Il giorno 15 novembre essi videro poi uno spettacolo che pose nei loro animi una quasi trepidazione. Fosse caso, a disegno, a un tratto corse per la città la voce che Piero dei Medici s'avvicinava alle porte. La campana suonò a distesa, le vie brulicarono di popolo in furore, la terra sembrava partorire uomini armati che correvano verso la piazza. I palazzi si chiudevano, le torri s'armavano, già s'apparecchiavano i serragli ed i francesi vedevano quel giorno il primo saggio delle barricate. Subito si conobbe la voce esser falsa ed il rumore sedò con la rapidità medesima con cui s'era levato, ma rimase nell'animo di quegli stranieri la certezza che le loro manovre e i loro battaglioni, chiusi in quelle vie, potevano fare assai poco di fronte a questa nuova e a loro sconosciuta maniera di guerreggiare. I fiorentini infatti guardavano quella gente con una certa cotale aria di familiarità, come se avessero voluto dire «vedremo». A quel popolo, riacquistata la sua libertà, pareva essere divenuto signore del mondo e quasi credeva non esservi più cosa alcuna che dovesse temere. Il palazzo dei Medici era intanto apparecchiato per ricevere splendidamente il re, le case dei principali cittadini per gli ufficiali dell'esercito, le vie per cui si doveva passare erano tutte ricoperte di tende e parate a festa con tappeti ed arazzi. Il giorno 17 novembre la signoria attendeva in un palco costruito alla porta a San Frediano. Molta nobile gioventù fiorentina andava fuori ad incontrare il re, che ad ore 21 faceva il suo solenne ingresso. I signori si levavano allora in piedi per andargli incontro e messer Luca Corsini, avendone ricevuto l'incarico, presentavasi per leggere il discorso apparecchiato, ma in quel momento appunto, cominciando a piovere, i cavalli spingevano furiosamente gli uni con gli altri e tutta la cerimonia andò a vuoto. Solamente il Gaddi, che era ministro di palazzo, trovatosi d'animo e di lingua più pronta, si fece avanti fra quel trambusto e seppe dire in francese alcune poche parole accomodate al bisogno. Dopodiché il re, entrato sotto un ricco baldacchino, procedeva subito oltre. La sua figura faceva un singolare contrasto col marziale aspetto di quel numeroso e potente esercito alla cui testa egli camminava. Era quasi mostruoso, il capo aveva grosso, il naso lungo, la bocca larga, il corpo piccolissimo, le gambe straordinariamente sottili e i piedi deformi. Vestiva di velluto nero con un manto di broccato d'oro, cavalcava un bellissimo e alto destriero, entrava in attitudine marziale con la lancia sulla coscia, segno allora di conquista, e tutto ciò non faceva che mettere in maggiore evidenza la povertà della sua persona. Accanto a lui venivano il fiero cardinale di San Piero in Vincola con quello di San Malo e alcuni marescialli. Seguiva subito la guardia reale, composta di 100 arcieri scelti fra la più bella gioventù di Francia e 200 cavalieri francesi che andavano a piede vestiti d'armi e abiti splendidissimi. Veniva poi l'avanguardia svizzera, coi suoi vivissimi e vari colori, con le alabarde d'acciaio battuto, con le ricche piume sugli elmi dei suoi ufficiali. In quei volti si leggeva la fierezza montanara e l'orgoglio d'essere tenuti la prima fanteria d'Europa. La più parte di loro avevano con disprezzo lasciato la corazza per combattere a petto scoperto. I guasconi formavano il centro, erano piccoli, agili e lesti e parevano quasi crescere e moltiplicare a misura che l'esercito si avanzava. Nella cavalleria, dove era la più nobile gioventù di Francia, splendeva poi la maggiore ricchezza: armi cesellate, manti di broccato ricchissimo, bandiere di velluto ricamato in oro, catene e altri ornamenti d'oro. Una terribile apparenza facevano i corazzieri coi loro cavalli, divenuti quasi mostruosi per avere le orecchie e le code tagliate. Gli arcieri erano di straordinaria altezza, portavano lunghissimi archi di legno, venivano dalla Scozia o da altri luoghi settentrionali e parevano, dice uno storico di quel tempo, uomini bestiali. Questa tanta varietà di gente, di vesti e di armi, con tanto ordine e tanta disciplina riunite, era uno spettacolo nuovo e meraviglioso in Firenze e in tutta Italia, dove non erano ancora eserciti stanziali e non si conoscevano altre armi che le mercenarie. Non potremmo dire con quanti uomini il re facesse la sua entrata, giacché le artiglierie s'erano per altra via indirizzate verso Roma, molti presidi erano rimasti nelle fortezze e altra gente s'era avviata per le Romagne. Il Gaddi, che si trovò presente alla loro entrata, dice che ascendevano a 12.000. Il Rinuccini, che vi si trovò anch'egli, li giudicò assai meno, altri di più. Comunque sia, la città e i borghi ne erano pieni. Passarono per il Ponte Vecchio tutto ornato con festa e con musica, riuscirono nella piazza che era piena di carri, di trionfi e di statue, e pel canto dei pazzi sboccarono dietro al Duomo, girando il quale vennero in sulla facciata. Il popolo andava acclamando il nome di Francia ed il re non sapeva fare altro che sorridere stupidamente e dire qualche parola italiana male a proposito. Entrato in Duomo vi trovò la signoria, che dalla furia dei soldati era stata costretta a condurvisi per vie traverse, e qui vi pregarono insieme. Finalmente il re alloggiò nel suntuoso palazzo dei Medici e i soldati pigliarono i loro quartieri. Quella notte e l'altra si fece illuminazione per tutta la città, il giorno si passò fra feste continue e finalmente si venne a trattare gli accordi. I sindaci eletti dalla signoria a questo fine erano Messer Guidantonio Vespucci, Messer Domenico Bonzi, Francesco Valori e Piero Capponi, uomini tutti di grandissima reputazione nella città. Il Vespucci era dei più dotti nelle leggi e nelle cose di Stato, il Bonzi aveva tenuto con onore molte ambascerie, il Valori, chiamato di poi il Catone Fiorentino, era, come abbiamo visto, divenuto capo del popolo, ed il Capponi, ci ha più volte nominato, era veramente un'indole straordinaria di uomo. Egli era nato l'anno 1447 da famiglia di antico sangue fiorentino, tenutasi sempre amica della libertà e per molte azioni generose divenuta illustre. Il padre lo educò alla mercatura raccomandandogli di lasciare la politica perché i tempi piegavano assai male, e Piero si dette allora ai traffici con tanta energia che molti lo accusavano d'essere divenuto troppo amico del guadagno. Egli era in sui 30 anni quando Lorenzo dei Medici, che vantava di sapersi valere degli uomini, offerì a lui alcune ambascerie che esso accettò assai volentieri e le condusse con mirabile destrezza. In queste occasioni mostrò il Capponi d'avere un'attitudine singolare a conoscere i caratteri degli uomini ed una facilità grandissima nell'acquistare predominio sull'animo dei principi coi quali trattava e di quelli specialmente che più si vantavano di indole cupa e non penetrabile. Infatti Ferdinando di Napoli e Alfonso suo figlio si affidarono più volte ai consigli di lui, preferendolo ai loro stessi generali e ministri del regno. Ma se il Capponi, passando dai traffici alla diplomazia, si era trovato bene, passando da questa al mestiere dell'armi si trovò assai meglio, e s'avvide che egli non era nato né per stare al banco né per condurre trattati, ma piuttosto per menar le mani. E fu un caso che lo fece conoscere a se stesso. Egli era commissario della Repubblica nel campo d'Alfonso d'Aragona quando veniva coi suoi a difendere il Duca di Ferrara. L'esercito napoletano fu battuto dalle genti del Papa ed Alfonso s'era perduto d'animo in modo che si sarebbe certamente ritirato se il Capponi non avesse saputo rimetter coraggio in lui e nei suoi. Aggiungendo poi alle parole i fatti, egli condusse quelle genti alla zuffa e trovò d'essere un valoroso e destro soldato, abile a comandare e più abile ancora ad eseguire. Da quel giorno egli fu sempre il più fitto delle mischie, e la Repubblica, vedendo d'avere a un tratto acquistato un così valente capitano, lo adoperava sempre nelle più ardue imprese. Più difficile era poi l'incarico affidato al Capponi, più volentieri egli l'adempiva e voleva sempre far l'ufficio del soldato e del capitano, cosa che fu infine cagione della sua morte. Il Capponi era stato sempre amantissimo del governo popolare e nemico della tirannide Medicea, ma il bisogno di attività superava in lui ogni cosa e però, durante la vita di Lorenzo il Magnifico, lo aveva in molte occasioni servito. Dopo la morte di quel principe non poteva il Capponi favorire in alcun modo il governo di Piero e si dichiarò subito per il Partito Popolare, che lo tenne in grandissimo concetto ed ora nelle sue mani principalmente affidava la salute di tutta la Repubblica. Il Capponi infatti era l'uomo che meglio di ogni altro potesse maneggiarsi con Carlo. Egli era stato più volte ambasciatore in Francia ed aveva imparato a conoscere l'indole di quel re e dei suoi francesi, dei quali soleva dire: quando questi nostri italiani si saranno una volta annasati coi francesi, finiranno d'averne paura.